Allora parlo con la zanzara, Radio ciao 24. Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Viva la Rai, se starai buono il tuo Mazinga vedrai. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Mi ha chiesto anche alla Rai di partecipare alla spending review. E che è la Rai? Non adesso può partecipare. Ci arriviamo. La Rai si deve mettere 150 milioni, mi pare. La Rai secondo me deve decidere che cosa fare. Ma Mediaset quanto mette? La Rai è partecipata da... Lo so che fa confusione dopo 10 anni in cui ha visto Berlusconi, ma le comunico che Mediaset appartiene a Berlusconi. La Rai appartiene allo Stato italiano. E quando capiremo che lo Berlusconi. Stato italiano non è Berlusconi, sarà un gran giorno per lo Stato italiano e anche per il PD. L'antenna, mamma Rai. Renzi vuole togliere un po' di soldi alla Rai, vuole fare risparmiare alla Rai e litiga con Giovanni Floris, che dice Mediaset. Ora, caro Floris, per carità, ma Mediaset cosa diavolo c'entra? Mediaset è privata, cioè. Poi si può parlare, il duopolio, eccetera. Però in questo caso divento non renziano, ma ultra-renziano. Bravo, ultra-renziano. Aspetta però, c'è un però. C'è un però. Una specie di Brunetta più simpatico in questo, no? Il però è questo. Il però. Lui dice. Mi senti bene oggi? Sì, sì, benissimo. Sono in radio. Te credo. Allora, il problema è molto semplice. Fa benissimo a dire che la Rai non è dei conduttori. Ce l'abbiamo quella roba là quando dice la Rai non è dei conduttori. Ce l'abbiamo, no? Renzi, la Rai non è né dei conduttori né dei sindacalisti. India e Mazzini ci giocano i bambini. L'ha scritto su Twitter, sì, l'ha scritto su Twitter. Vabbè, è uguale. Dice una cosa sacrosanta, Renzi. Non è dei conduttori e non è dei sindacati. Stupendo. Questo è buono, eh? Però sono le parole, eh? Cosa vuole fare della Rai, del baraccone Rai, il ma signor Ma perché devi dire baraccone, però, baraccone. Scusami. Sempre comunque... mettere il carico da 90. No, è un baraccone, c'è poco da fare, è un baraccone. È una grande azienda, è la più grande azienda culturale di questo paese. È un baraccone, ma lascia perdere. Cosa vuole fare? Privatizzare qualche rete? Cambiare il cioè, modo... Questo non si è capito. Questo non si è capito. Ecco. A parole va oltre Berlusconi, perché Berlusconi contro i sindacalisti della Rai e contro i conduttori, a parte qualcuno, non è che abbia fatto mai grandi, no, grandi intemerate. Oppure no, dipende dal funzionario Rai. Ancora Renzi, dai, Renzi Floris. Io temo che la RAI sia un ente, sia una società che appartiene a tutti i cittadini e non ai partiti politici. E per questo motivo io ho scelto, a differenza di tutti i miei predecessori, di non mettere bocca, di non mettere mai bocca in una discussione sui palinsesti, sui conduttori, sui direttori e sulle trasmissioni della RAI. Perché quando stavo dall'altra parte del tavolo e non ero al governo, io dicevo che la RAI doveva essere fuori dai partiti, che i partiti dovevano essere fuori dalla RAI. Poi talvolta si potrebbe dire anche la RAI fuori dai partiti, ma è un'altra storia. Farebbe un piacere pure ai partiti. Oh, Grillo vada Vespa, Grillo vada Vespa. E dice che vada Vespa perché non è un talk show. Questa cosa è curiosa. Ma non è un talk show. Beh, oddio, che cos'è? È una specie di talk show. Ma no, è una. Ci sono. È la rete che giudica, che vede. Ho capito, ma. Campagna elettorale va dovunque, cazzo. Ma ci sarà. Parlerà sì, del gabinetto. Ma non c'è. È molto semplice, non è che bisogna giustificarsi, Grillo. Lei vada Vespa. Culo, ma vado lì, ma perché lo devo mandare a quel paese? Quello vedremo. Devo prendere il voto delle vecchie che lo guardano. Ah, ecco, quello sì. Il voto delle vecchie, delle nonnine. È sempre festa viva. Lei mi dice perché non vado in televisione. Io non vado nei talk show perché conosco la televisione. Non è un talk show, è un faccia a faccia con un giornalista. È diverso. Il talk show li conosco, è una regia. La televisione non è. È la radio, non è che la gente ascolta quello che dici, vede, è visione, è immagine. L'antenna, mamma Rai, non ti abbandona. 30 secondi, posso solo dire vaffanculo, sentite. io sono un monologhista, non sono abituato a dare concetti. Mi spieghi cos'è il suo movimento a 30 secondi, perché poi andiamo in pubblicità. In 30 secondi io ti posso solo mandare a fare il culo. Mi avanza ancora 10 secondi per poterlo risolvere. Il sentimento, perché oramai questo cervello avrà un padrone, lo sai. Quando tu parli e mentre parli l'immagine è su Gaspari, puoi dire la teoria della relatività, che diventi un coglione come lui, così. Mentre tu parli ti inquadrano un piede che magari sei nervoso che va, o l'unghia, magari che è l'unghia, oppure un'altra cosa, oppure va la pubblicità, oppure stai per dire dare un senso al tuo discorso, un attimo, un senso. In via dei Mazzini ci giocano i bambini. Vabbè, andiamo su Berlusconi che dice che a Cesano Boscone... Io voglio farmi l'accredito, te lo dico subito. Aspetta, non me ne frega voglio niente. Voglio accreditarmi e seguire il dietro le quinte per la zanzara... Mazzao, che culo. ...di aspetta, Grillo... Aspetta, vabbè, Berlusconi che dice a Cesano Boscone... Sono 4 ore di osi di pace. Servizi sociali a Cesano Boscone, ci sono anche le foto di chi... Com'è andata? Come vuole che sia andata? È andata molto bene. Io devo dire che non arrivo a ringraziare i magistrati che mi hanno concesso che nel lavoro frenetico di tutti i giorni io potessi trovare un'oasi di pace di 4 ore andando lì. Se sarai buono, il tuo mazinga vedrai. Oppure no. Al TG5 sul complotto, dice il famoso complotto evocato da un americano, da un ex capo del tesoro americano, gli europei avrebbero tramato per far cadere Berlusconi, c'è stata una precisa volontà di farmi fuori. È la conferma di ciò che ho sempre sostenuto, cioè che c'è stata una precisa volontà di togliere di mezzo un presidente del Consiglio democraticamente eletto. Oh, poi senti questa cosa. Ma questo è vero, però poi ne parleremo. Aspetta, no? Una televisione francese, Canal Plus, gli chiedono: ma lei, anzi, Rocco Siffredi ha detto che vorrebbe fare un film con lei. Senti, Rocco Siffredi che ha detto in una radio italiana che aveva un rêve, c'est de faire un film avec vous. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre? Cosa rispondete? Con producteur plus que de 100 film, j'ai gagné deux fois l'Oscar pour mes films, mais j'ai pas eu l'intention de faire l'acteur et je continue dans cette direction. Allora, di fronte a... L'ha detto da noi, l'ha detto a una radio. Siffredi. Beh, siamo tra quelli che, diciamo, maggiormente sospettati, visto che viene invitato un giorno sì e l'altro pure. Signor Rocco Siffredi disse voleva fare un film con Berlusconi qui alla Zanzara. I francesi hanno ripreso questa cosa e dice Rocco Siffredi ha detto che... E nella radio italiana, no, c'è anche in una radio italiana. Sì, ha detto che vuole fare un film con lei. Risposta di Berlusconi: io faccio il produttore, ho vinto due volte l'Oscar e, insomma, voglio proseguire su questa strada, non ho nessuna intenzione di fare l'attore. Bene, abbiamo con noi, caro Parenzo, una signora, una ragazza, anzi molto giovane e anche molto bella da quello che si vede dalle foto. Poi dal vivo bisogna sempre controllare, come si sa. È una ragazza che forse è l'ultima persona, non ad sappiamo aver visto. Ad aver visto Claudio Scagliolo. Si chiama Rosa Criscuolo, fa l'avvocato Eccoci qua. E in parte anche la giornalista, vero? Molto bene. Allora, sì, sono una collega. Una collega. Bene. Dama bionda e avvocato cosentina. Che vuol dire avvocato cosentina? Perché lei è cosentiniana? Io sono cosentiniana perché ho... innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera, cara. Poi dicono che al sud siamo maleducati, no, siamo legati. Siete così gentili. Avete anche le chiavi della Reggia di Caserta, siete persone gentili. Sì, voi. Io ho anche quelle di Villa Vannucchia a San Giorgio. Ma lei è andata mai a fare corsa, running con Cosentino? Fooding, no, guardi, quello, in realtà queste chiavi della Reggia di Caserta le hanno tutti quanti a Caserta. Sì, certo, ma come ce l'hanno tutti? Scusi, però quelle di Cosentino erano riposte di nascosto, però poiché le aveva Cosentino hanno fatto, insomma, questo clamore, perché oramai noi diamo vita a questi processi mediatici e va bene certo, così. Certo, tutti hanno le chiavi della Reggia. L'abbiamo condannato prima noi tutti quanti e poi dopo lo condannerà il tribunale. Senta una cosa, ma non ho capito, ma è vero che ce l'avete tutti ste chiavi adesso per restare lì, poi parliamo di altro, ovviamente. Ma guardi, io non ce l'ho. le chiavi della Reggia. Non ce l'ha le chiavi della Reggia di Caserta. Vabbè. No. Senta, perché lei è cosentina? Lei pensa che contro Cosentino sia stato, ci sia un complotto, che sia ingiustamente in carcere, che sia un uomo casto, puro, innocente? No, qua nessuno è casto e puro. No, casto è puro. Io sono cosentiniana, abbiamo insomma creato questo movimento che annovera parecchie persone, di matrice radicale. Cioè, che lotta contro la carcerazione preventiva. Sta parlando con un iscritto a Partito Radicale. Lei non è iscritta a Forza Italia, è iscritta a Partito Radicale. No, non ho mai fatto questa cosa, non penso che adesso sia il caso. Capito Parenzo? Cioè, la donna che per ultima ha visto Scajola per incontri politici, specifichiamo. Radicali so che sono. Radicale. Ma neanche più lui, neanche più era di Forza Italia, era stato silurato. Ma perché è stato silurato Scajola? Secondo lei ha una teoria su questo, vero? Signora Criscuola? Sì. Io credo che comunque si stia preparando un ridimensionamento del partito per vincere le prossime politiche. Cioè, chi l'ha fatto fuori? Il partito stesso? Ma sì, secondo me il partito è imploso. Sì. No, tutti questi attacchi da fuori io li vedo pochi. Diciamo, abbiamo fatto consociativismo per tanti anni, oggi non lo diciamo. Però, signora Criscuola, la domanda è questa: secondo lei Scajola è stato fatto fuori dal suo stesso partito, da chi comanda adesso? Cioè, anche quest'ultima indagine è stata un po' pilotata. O no? Beh, risponde alla radio. Faccio l'avvocato, non posso rispondere a Chiarelli. Vi do una risposta in politichese. Siamo bene. Dico così per soddisfazione. Secondo me i leader territoriali vogliono essere tenuti fuori da un nuovo ridimensionamo. Vabbè, però così non Noi non capiamo, non si capisce. Vabbè, comunque ho detto non c'è Cosentino, non c'è Scajola, non c'è Dell'Usi, stanno tutti quanti via. Ci sta questa condanna vergognosa per associazione esterna, un reato, tra l'altro, neanche così chiaro. Ma lei è battagliera, lei è molto battagliera su questo. Cioè lei dice che questi processi fanno comodo perché hanno fatto fare i ripulisti dentro il partito, questo sta dicendo. Chiaramente, questo sì. Cioè, Criscuolo, ma che cosa è accaduto quella sera con Scajola? Io gli faccio subito una domanda diretta. Ha fatto l'ultima cena in via Veneto, allora, lei, no? Lei ci è andata a letto, sì, non gliel'ha fatta nessuno così diretta la domanda. Ci è andata a letto, sì o no? No, grazie che me l'avete fatto. Così, brutale. No. No, non è brutale, secondo me. Io sono una libertaria, quindi non ho problemi a risolvere queste cose. Oh, viva Dio! È nel posto giusto, cara. Non ho incarichi, non ho cariche, ho conti correnti prosciugati e vi rispondo: no, non ci sono. Anche mi dicono due vedo anche, no? E lei è ben fatta, come dire, no? Me la cavo, però una cosa ingiusta che io devo dire, io non sono rifatta, vi prego. Carità, nessuno di noi, per carità. Possiamo dire qualunque cosa, ma sud naturale, mi faccia capire, Criscuolo, scusi, è peggio dare Rosa, chiamala Rosa, scusi. Cara Rosa, è peggio dare a Cosentino dell'affiliato alla mafia, questo o è peggio dirle che ha il seno rifatto? Quale delle due cose? Perché è una cosa così complessa. La prima insomma è tautologica, gliel'ha andato oramai. La seconda è peggio. Dai, io voglio difendere me, a lui lo difendono gli avvocati, io mi difendo da solo. Pensano come zanzare. E il conduttore? Queste ombre. Sì, è il conduttore, certo che è il conduttore. Mi mancava questo. Allora, abbiamo con noi una simpaticissima Rosa Criscuolo. Sono sempre qui. Che però ci deve dire sta roba delle stanze, perché nell'albergo di via Veneto, dove ha alloggiato e dove alloggiava Scajola la sera. Ma veramente prima avete parlato solo di politica? Ecco. No, abbiamo fatto anche un po' di gossip, un po' di cose, perché io sul territorio conosco parecchie cose. Abbiamo parlato un pochettino di un personaggione che noi abbiamo partito in campagna, che è Luigi Cesaro, che è fantastico, detto Gigino la Purpetta. Sì, avete parlato di un po' di personaggi, ma è strano che uno vada a cenare nella stessa camera, cioè in camera da letto, cioè nella camera del signor Scajola. Cioè uno può pensare male. Di solito non mangio nelle camere da letto. Appunto. Però volevamo evitare proprio quello che è successo, in generale. Il gossip. Volevamo evitare questa cosa. Sì, perché costruire una carriera politica su questa cosa, poi io sono un po' appariscente, però io penso una cosa. Non so, io ho sempre avuto il dubbio, ma non è che mi hanno scambiato per sta signora Matacena. Ah, lei dice, no, vabbè, quella stava all'estero, no. Ma scusi un attimo, ma Scajola è il suo tipo? Forse qualche tempo fa mi poteva pure piacere, oggi no. Perché? È perché io ho 33 anni, 30, tra poco, lui ne ha, penso, quasi una settantina, quindi... Niente, non è poi il suo tipo. Poi penso che è il tipo della moglie, non... Non si sarebbe mai permessa, diciamo, lei di... Però effettivamente cenare nella stanza, amica mia... Beh, se uno pensa male subito... Cioè io con no. Cruciani non ho mai cenato nella stanza, ecco, con Cruciani, questo non mi ha mai... vabbè, ma non lo faccio... A me mi fanno entrare, diciamo, nelle stanze... Ma chi è il suo però... tipo? Signora Criscuolo, chi è il suo tipo? Il mio tipo... Più giovane? No, sui 40, beh, faccio un appello, cerco un fidanzato dai 40 ai 45 anni che non faccia il politico. Perché? Cruciani? Va bene, no, simpatico. Si può fidanzare con il signor Cruciani? No, allora. Io sono più grande, no, 47, no, sono fuori. Mandatemi le foto. No, anche le foto, vabbè, foto ma ci sarà, Cruciani. Voglio dire, ma ha un certo fascino il signor Scaiolo o no? Certo. No. Lo devo dire perché praticamente sì, è affascinantissimo perché su dei giornali è uscito che ho detto che è mio nonno. Allora io assolutamente devo recuperare questa cosa. Ah, è ecco. Una persona molto affascinante, vabbè. No, è no. Fantastico. La prima cosa che si dice è sempre sì. Quella vera. Diciamo la verità. La prima risposta è quella che vale, ma lei con uno come Scaiola non ci andrebbe mai, diciamo. O sì, Non l'ho incontrato per fare questo, diciamo, non l'ho incontrato per fare questo. Ma in politica qualche gossip almeno. In politica, no, ma scusi, in politica è giusto usare la propria bellezza anche per ottenere delle candidature, delle cose, diciamola tutta la verità. È giusto. No, ma io ho rifiutato una candidatura, quindi non rientra proprio nella mia logica, però sicuramente è una pratica invalsa, questo sì. Io ho rifiutato la candidatura a Fratelli d'Italia, se la volevo insomma, mi vengono date, insomma, le candidature. Senta una cosa, ma perché lei dice di essere più femmina della Pascale? Perché? Perché io non ho, io so che in campagna stanno un po' festeggiando di questa cosa, no? Perché in realtà volevano dimostrare che in qualche modo, ma non so se entra pure in un complotto, io non saprei dire, mi sento un po' matare sotto questo punto di vista, anche un po' in difficoltà. Sono più femmina perché, non so, io... Perché? Non la vedo una persona molto sincera in quello che fa. Vabbè, che c'entra questo con la femminilità? Cioè, tutti hanno pensato male quando lei ha scritto. No, l'essere. Ah, sul fatto della. Ho capito. No, io sono molto etero, anche se libertaria. lei non lo è so. Molto etero, anche se. Lei non lo so, cioè, la Pascale non si sa, o no? No, io ho sentito le dichiarazioni delle cose sulla sua identità sessuale, strano, però comunque difendo la comunità GBLT da 10 anni, fare coming out non è un problema. Ma scusi, perché lei sta dicendo che è omosessuale? No, l'ha detto Michel Bonef che aveva questa identità. Lei ci crede? Io no, io penso che sia una libertaria pure lei, però con interesse, non radicale. Una libertaria per interesse in che senso? Ma che ambiente? Nel senso che magari a volte queste cose possono fare comodo, diciamo, cosa? Per fare... dichiarare queste allusioni, queste ambiguità, magari possono affascinare, questo sì. È affascinante. Comunque lei si sente più femmina della Pascale, questa è la realtà. Ma stavo parlando con un mio amico comunista, qui ho detto questa cosa, capito. Un mio amico giornalista. Ho capito. Ma che bella cosa. Ma a sinistra l'accettano la bellezza di una donna o no? Ma io penso che con Renzi adesso si sono risvegliati un po' tutti, hanno detto non ci mandate più le bindi, vogliamo le si risveglia l'ormone, lei dice. Renzi risveglia l'ormone, questo dice lei. Sì, oramai sta cavalcando l'onda, ma lui è il figlio naturale di Silvia, secondo me. Sì, è il figlio. Ma lei lo voterebbe Renzi? Ma sicuramente non voterei Alfano. Sicuramente non Alfano. Cioè, voglio dire, ormai siamo sulla barca di Renzi, anche lei potrebbe salire sulla barca di Renzi. O no? No, guardi, io voglio rimanere a Torre Argentina insieme a Marco Pannella perché io sono molto esaurita. Ma Marco Pannella lo sa, soprattutto. Appunto. Sì, mi conosce. Anzi, le devo dire, sul Corriere del Mezzogiorno oggi è successo che i vertici campani hanno detto: ma chi è Rosa Criscuolo? Noi non la conosciamo. Appunto. Sia Luigi Cesaro, sia Paolo Russo. Me sembra molto strano perché ho lavorato per un annetto in commissione speciale a Regione Campania. Come mai questi, che cosa è successo? Hanno delle amnesie. Scusi, ma com'è finita? Come vi siete salutati con Scaiola quando lei è uscita dalla Camera? Sempre sei uscita dalla Camera, Ma si è abbattuto prima che io me ne andassi, credo. Si è addormentato. Si è addormentato lei? No. È rimasta lì. Ma ce l'è impietosa. Ma è una cosa pazzesca. Ma come? Dai. Ma non è possibile. Gli è venuta a nona, come dicono nel ma mondo. Ma dai, su. No. Guardi, secondo me questo signore, questo politico, così come Nicola, eccetera, eccetera, innamorati della politica, sono stati feriti nell'unica cosa in cui credevano, è l'unica cosa che amano. È meglio, è meglio comandare che fottere, dice lei. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Sentite l'attacco di Grillo sulla vicenda genovese, il deputato del Partito Democratico accusato di cose gravissime, che c'è una richiesta d'arresto in ballo, però pare che il Partito Democratico voglia rinviare questo voto, voglia rinviare questo voto. Grillo passa all'attacco. Ha ragione qui Grillo. Il PD ha votato contro la calendarizzazione prima delle elezioni, quindi il Parlamento deve giudicare quest'uomo prima delle elezioni e mandarlo fuori dal Parlamento. Questa è una vergogna del PD, è una vergogna del PDL che spalleggia il PD in questa roba ignominiosa, ignominiosa. Si può dire ignominiosa? Dico ignominiosa. Quindi un appello a tutte le forze armate, anche l'esercito, marina e sommergibili. Andatelo a prendere. Non credo che sei d'accordo su questo. No, ecco, dovevo sentirla tutta, scusami. Parte, poi dicono, mi scrivono su Twitter, ecco il solito Parenzo stronzo che parla mai di chi. Stava dicendo una cosa giusta, poi deve sempre sommergibile, Mari. Ma perché? Finisce sempre male poi, sempre. Vabbè, questa era una provocazione, sì, ha detto esempio. Esercito, sommergibili, marina, eccetera. Tutti pronti. Andatelo a prendere. Ma io parlo, ma cosa vuoi? Ma ti rendi? Vabbè. Allora, sono stato sommerso di insulti. Non è una novità, posso dirti. No, non è questo. Una novità. Per avere ironizzato sul famoso video di D'Alfonso, uomo del Partito Democratico candidato alla presidenza dell'Abruzzo, in cui parla di UFO, di UFO. Siccome noi però, caro D'Alfonso e cari fan di D'Alfonso, parliamo italiano, parliamo la lingua italiana, qualche volta anche male, però parliamo la lingua italiana. Dunque, se lei dice che in Abruzzo c'è il pericolo di un'invasione degli UFO, di una invasione dell'arrivo, come facciamo degli noi UFO? A sapere che si noi... riferisce alle paleoliche? No, scusa. Come si fa? Come facciamo? No, alle piattaforme petrolifere, una cosa di questo tipo, perché sembra che sia questa, tutti in Abruzzo sanno, ma non esiste solo l'Abruzzo, signor D'Alfonso, esiste anche l'Italia. Comunque, siccome non abbiamo capito niente, intanto facciamo risentire gli UFO. Il mare Adriatico sarà il parco più grande di cui dispone l'Abruzzo e noi lo rispetteremo come è giusto che accada, sia dalle invasioni degli UFO, perché ci sono UFO che si sono messi in cammino, ma poi riconcilieremo l'acqua salata del mare con l'acqua dolce dei fiumi. A proposito di UFO, che secondo D'Alfonso e il suo staff sono in realtà le piattaforme petrolifere che sono sul mare Adriatico, e dunque il pericolo di queste piattaforme petrolifere, ma lasciamo perdere. A proposito di UFO, c'è un candidato alle europee della Lega Nord che si chiama D'Amico, signor D'Amico. Sì. Senti cosa dice. Come candidato alle elezioni europee mi batterò per fare in modo che i paesi europei diano le informazioni riguardanti gli oggetti non identificati, i famosi UFO. È una mania. Ancora. È una mania. Sono un fenomeno reale, non possiamo fare finta di niente, e io ritengo che non si possa tenere il segreto su queste questioni. E insiste. Ti rendi conto? Aspetta. Siamo nell'età dell'informazione, siamo nel 2014, dove tutto viene messo in rete, quindi mettiamo anche in rete le informazioni sugli oggetti non identificati. Ci sono o non ci sono extraterrestri che vengono sul nostro pianeta? Ci sono altri esseri viventi che sono stati in contatto con noi? se i governi hanno informazioni a riguardo, è giusto che tutti i cittadini lo sappiano. Ci sono o non ci sono gli extraterrestri? Bisogna desecretare i documenti sugli UFO. Gli UFO sono un fenomeno reale. Questo è un candidato della Lega Nord al Parlamento Europeo. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano sul caso Geithner, mai saputo di pressioni americane, Berlusconi si dimise liberamente e responsabilmente, spinto solo da ragioni politiche interne. Renzi sulle riforme non indietreggeremo di un millimetro, visita a Secondigliano, la lotta alla mafia comincia nelle scuole, nuovo fondo sulla RAI. E scontro tra Democratici e 5 Stelle sul caso Genovese, la Camera dice no alla richiesta di anticipare il voto sull'arresto del parlamentare PD. Bonus fiscale anche ai disoccupati e cassa integrati, l'importo in base ai giorni lavorati, i premi di produttività non fanno saltare il tetto di 26.000 euro. Inchiesta della Procura di Bergamo su UbiBanca, indagati i vertici, le accuse, ostacolo alla vigilanza, truffa e riciclaggio. Ospitati a Catania i migranti sopravvissuti all'ultimo naufragio, fermati gli scafisti, il Papa stragi vergognose, Bruxelles enorme aumento degli arrivi. Incidente nella miniera di carbone in Turchia, oltre 200 i morti, ma in 120 sono ancora intrappolati nelle gallerie e la folla se la prende con Erdogan. Colpo di Stato, ma che colpo se lo Stato qui non c'è? Adesso va bene ricostruire la storia, caro Parenzo. Sicuramente ci furono delle pressioni. I governi europei, alcuni non volevano Berlusconi, che sì, era già debole di suo. Beh, io non lo so. In campagna elettorale, poi, naturalmente, Berlusconi, adesso, dopo un attimo di calma, si scatena. Siamo furiosi, siamo disgustati. E col Colle che precisa, non siamo mai stati informati dalle pressioni. Berlusconi lasciò in modo libero e consapevole. Però posso dirti una cosa: ma a me che cazzo me ne frega di quello che è successo ormai nel 2011, sì, certo, nel novembre del 2011, ma chi se ne frega? Però stiamo raccontando ma l'acqua basta, calda. È il novembre del 2011, ma chi se ne frega? Di diciamo la verità, può darsi pure che alcuni governi europei complottavano. Ma si sapeva, ma la Germania... No, non si sapeva, aspetta, ma ricordati fermo. L'immagine, ma no, devi ricordare questo, mi viene fuori la voce di Grillo, che pazzesco ogni tanto. Ricordati questo. Sì, l'immagine di Sarkozy e della Merkel che rideva. E la Merkel, la rideva, ma perché sì, d'accordo. Sai che quando sono a cena, l'altro giorno ero al ristorante lì a Treviso con un collegamento di Matrix e ho detto portatemi la pizza subito, porca puttana. Però al di là di questo, se davvero questi hanno tramato tra di loro chiamando gli americani, aspetta, per far cadere Berlusconi sarebbe comunque grave. Io dico, però vado avanti e ti dico, chi se ne fotte? Cioè, va bene per la storia, ormai è finita, è chiuso. Cioè, era debole già Berlusconi, era debolissimo. Carlo D'Alecco, dai. Eccomi, sono incazzato come una iena. Allora, io ieri sera arrivo a casa stanco morto, ho la forza di accendere la televisione, di guardare 5 minuti, mi sono beccato Floris e Renzi. Sì. E mi domando, sentendo la vostra trasmissione, che è tipo una droga, perché io dico, no, non voglio sentirli oggi, so che mi fa male, non voglio, e poi accendo la radio e vi sento e non riesco a staccarmi, e mi girano i coglioni come sempre. Certo. Allora, nello specifico, faccio una domanda a Parenzo, ma quando Renzi risponde, visto che fa l'avvocato di Renzi, il signor Parenzo, no, ma quando Renzi dice che parte delle coperture degli 80 euro arriverebbero dalle regioni, dalle province, tutti, e ancora bene non si sa esattamente, e dice a Floris, domanda retorica, perché immagino, perché penso che ci sia da tagliare lì, ci sono degli sprechi nelle province, nelle regioni. Vabbè, allora la so solo io la faccenda che Renzi è condannato per danno erariale e credo per quando era la provincia. Vabbè, a parte che ancora non è definitiva, no, che c'è la condanna, la corte lo sappiamo e l'abbiamo detto alla Zanzara, la Corte dei Conti aprì un procedimento quando era sindaco di Firenze. No, però presidente della provincia, non c'entro la mazza. O presidente della provincia. Allora, sì. C'è ancora una condanna che non è definitiva. E non è definitiva. Ma qual è il problema? Non ho capito. perché non si può sempre sputtanare Grillo per i sommergibili, queste battutine qua, e poi vedere, cioè, poi lasciar perdere queste cose qua. Cioè, ci troviamo un presidente del Consiglio lì, messo così, che va a fare il belloccio in televisione e dice delle cose, quando per me uno condannato in primo grado per danno erariale non potrebbe essere il presidente del Consiglio. Vabbè, non diciamo stronzate, dai. Vogliamo berci queste cose. Questa, vabbè, questa è una puttanata. Io sugli 80 euro, caro Carlo, come sa, ho una mia idea. È una pura elemosina, pura elemosina, ed è una cosa sommamente ingiusta per quelli che non rientrano tra gli 80 euro. È una vergogna assoluta, come ha detto qui Boldrin l'altro giorno, certamente non un anti-renziano di ferro. Quando lo dicevo io mi pigliavate per il culo, ah, sei uno che c'ha i soldi, che non può parlare. Adesso lo dice il professore, quello che è pure amico di Parenzo, e tutti zitti. La musica suona senza colori, ma i riferimenti sono reali. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di crederci un po' in questo sogno. Per questo dico che meno male che Silvio c'è. Mamma mia, che botte! Come è, se le sono questa date, no, è sempre la stessa rivista, ah, corretta, un po' riaggiornata, certo. Come se le sono date di santa ragione, caro Parezzo, la due signora signore, De sì, Martini, sì, e la signora Ronzulli, sì, sì. Allora tutto inizia con un'intervista di Parenzo, come sappiamo, eccetera. Poi a un certo punto la De Martini interviene qui alla Zanzara e dice: io non sono figa, non appartengo al cerchio magico. De Martini, candidata per Forza Italia al Parlamento Europeo, stessa circoscrizione della Ronzulli, già eurodeputata. Berlusconi in sé per sé non mi tratta, nel senso che io non sono nel cerchio cosiddetto magico e non sono neanche figa, udite udite, una candidata all'Europarlamento di Forza Italia normale. Ronzulli ricatta Berlusconi. Onorevole De Martini, lo ricatta? Secondo me sì. Ah, ricatta Berlusconi, eh? Ricatta, no, io dico secondo me, perché non, no, posso, beh, certo, capire, secondo come lei, io, questo sempre secondo lei, una persona così possa essere candidata. Come fa a essere candidata una persona così, dice la De Martini, e si riferisce al processo Ruby, al processo Ruby. La competenza della Ronzulli? Organizzare feste. Ha organizzato feste, quindi non ha un curriculum da... Non mi sembra che ci sia tante feste da organizzare in questo momento. Se va al Parlamento Europeo, penso che la manderanno per organizzare feste anche al Parlamento Europeo, dato che quella è la sua competenza. Quindi mi chiedo che cosa ci sia da festeggiare in questo momento, cioè da andare lì e litigare per avere fondi europei. È stata candidata per l'immunità parlamentare. Io però, davanti a queste cose gravissime, caro Parenzo, io avrei reagito con una bella querela che è stata in parte annunciata dalla Ronzulli. Ci si potrebbe domandare perché uno non sporge querela? A saperlo. Vabbè, lasciamo perdere. In questo sogno, per questo la sua posizione è una posizione di privilegio e di forza, quindi è stata messa in lista ed è in realtà portata per essere votata al Parlamento Europeo, io presumo per avere un'immunità parlamentare, perché mi sembra sia coinvolta nel processo Ruby. Sono cose gravissime, cose gravi. A un certo punto interviene per telefono la stessa, cioè, chiama lei, spieghiamo, non è che era tutto improvvisamente ha chiamato lei, diciamo la cosa, non è che abbiamo creato noi la situazione, no. Ma naturalmente una volta che ci è stato servito su un piatto d'argento, non è che te portano il bucatino, che fai, o guardi, no, mangi. Beh, oddio, ogni tanto puoi anche fare dieta, puoi anche fare. Che chiama? Cioè, mettimi quello che chiama, mettimi in diretta, no, quello che chiama, mettimi in diretta quello che chiama, no, quello stronzo che chiama, mettimi, no, in diretta. Non chiamarlo così, Antonio. Sei uno stronzo, Antonio. Non parlare perché sei in diretta alla Zanzara. Scusami. Antonio, ma per, no, quale cazzo di motivo chiami che quello perché è in diretta? Non Antonio, sei in diretta alla radio, scusami, perché il signor Cruciani mi ha chiesto di come stai? Bene, caro, scusami, ma è un mio amico. Scusami, Antonio, ma che Cruciani. Ma perché chiami alle 19:37, Antonio? Cazzo! Ciao, grazie, scusami. È una roba incredibile. Ho capito, ma è mio amico di Padova, Antonio ma Martini. Ma chi se ne frega? Vedi... Dai, comunque, interviene la Ronzulli. Buonasera a tutti voi, buonasera cara Susi. Ma ciao carissima. Ma che piacere sentirti, è sempre un grande piacere sentirti. La cosa che la cosa che mi sembra un po' strana è che fino a ieri eravamo allegre, andavamo d'accordo, cioè, francamente scendo un po' dal pero, ci rimango anche un po' male, non riesco a capire perché. Dice la Ronzulli: l'immunità non mi serve. Ma i miei riferimenti sono reali. Ci tengo però a dire che non mi candido perché ho bisogno di un'immunità parlamentare, perché non ho bisogno. Benissimo, andiamo al merito. Questo è molto, deve essere chiaro. Per questo ti... De Martini, la Ronzulli non parla inglese, è come la Minetti. Scusate, qua c'è una questione di merito però. Allora, cioè, qual è il merito? Ci sono delle lezioni molto importanti queste, sì. Perché l'Italia è in una Vabbè. Crisi grandissima. Dunque? Ma poi voglio dire, noi dobbiamo mandare in Europa i migliori in ogni partito. E dunque, secondo me la Ronzulli è una che non è degna. La Ronzulli non è degna, giusto? Non sa parlare una parola d'inglese, è stata candidata perché una persona vicina al presidente Berlusconi organizzava la festa a Villa Certosa, come la Minetti ad Arcore. Sentitevi le intercettazioni Minetti-Ronzulli, vi divertite. Mi sta sputtanando. Mamma mia, che botte, ragazzi. Ripeto, mi spiace che dica così. Preferirei non andare oltre in questa telefonata. Vabbè. Adesso vi saluto e vado dai miei elettori, perché il passo successivo è una querela e io non ho voglia di querela a nessuno, francamente, in campagna elettorale, perché non lo trovo giusto. Penso che si debbano utilizzare strumenti differenti. Vabbè. E non lo sputtanamento senza nessun tipo di cioè la sta sputtanando verità. La sta sputtanando, certo, in questo momento, certo, senza verità. L'Italia ti ha scelto di crederci un po' in questo sogno. Mauro da Como. Sì, buonasera, io chiamo in merito alla notizia, alla rivelazione dell'ambasciatore Gartner, sì, secondo cui avrebbe dato una mano per, diciamo, far cadere Berlusconi. Sì. E volevo ringraziare gli Stati Uniti perché è la seconda volta. No, veramente gli Stati Uniti pare che non abbiano fatto nulla. Anzi. La prima volta ci hanno liberato alla fine della guerra dai nazifascisti. E adesso, se fosse vera la notizia, ci hanno aiutato a liberarci. No, lei non ha capito come stanno le cose, ma non importa, diciamo. Allora, gli Stati Uniti, ancora una volta. Allora, caro Mauro, innanzitutto sembra da questa ricostruzione che gli Stati Uniti abbiano respinto le avance, i progetti di alcuni leaders europei. Appunto. Che Dagospia, cioè D'Agostino, identifica come, non mi ricordo, dopo ve lo dirò. Per cui proprio da questo punto di vista non c'entra nulla. Dopodiché lei evidentemente ringrazia gli europei, allora, coloro che avrebbero fatto in modo di destituire Berlusconi, giusto? Esattamente, sì. Vabbè. No, lei ha fatto una precisazione, la mia era un po' una battuta. Mi hanno liberato una seconda volta, in realtà ringraziamo i colleghi europei e ringraziamo di essere in Europa. Va bene, grazie. Francesco da Roma. Sì, ciao, buonasera. Intanto la Santanchè dice: Napolitano smentisce, io insisto, regista del complotto. Beh, qui siamo a complotto. Ti do anche un'altra notizia, mi scrivono. Sì, dimmi. Ti interessa molto, notizie sindacali. Sì, l'Unione Sindacale di Base, che ha occupato oggi il Pirelloni a Milano, sì. È stata un'occupazione. Sì. Poco fa la polizia ha fatto irruzione nel Pirellone per sgomberare con la forza gli attivisti. Ma perché, occupanti. Ma perché dovrebbe interessarmi una puttana dell'Unione del genere, Sindacale, scusa, di Base? Ma non me ne fotte nulla di questa farei cosa. Farei uno specialino, ma però, non me chiamando ne frega nulla. Questi che hanno occupato il Pirellone. Mi fai parlare con Francesco, sì, da Roma, per favore? Sì. Grazie. Francesco, sì, volevo parlare della sì, i sindacalisti che pare che impediscono l'apertura del Colosseo là, cioè, perché non vogliono dare gli straordinari. È un'altra storia questa. Una cosa pazzesca. Francesco da Roma, questa è l'Italia, sì, governata dai sindacati. No, questo non si può dire. Sì, dai. Come no. Francesco da Roma. Allora, sì, volevo dire che sono contro l'esposizione universale a Milano. Sì, lei è contro l'Expo a Milano, diciamo, ce ne faremo una ragione per il fatto che lei è contro, sì, l'Expo. No. Ma non credo di essere l'ultimo. No, ma io anch'io sono contro l'Expo. Bravi, bravi, bravi. Sono assolutamente bravi. Contro l'Expo. Bravo, è giù, intelligente soprattutto. Sì, certo, bravo. Sono contro, sì, l'Expo. Ma cosa vuol dire contro l'Expo? Sono contro cosa l'Expo, sono stato sin dall'inizio contro l'Expo. Un grandissimo evento mondiale che porterà gente da tutto il mondo. Ma quale evento mondiale? Ci sono gli americani, i cinesi, che stanno ci ma sarà un'intera città costruita, un'economia che girerà, Francesco, attorno a questo. Dica, sì. Allora, arriva, sì, Francesco, ci sono contro l'Expo. Francesco da Roma. Di Renzi ieri è come se avesse detto: state tranquilli, andiamo avanti così, farete, come si dice dalle parti mie, carne di porco. Ma che vuol dire, Francesco? A parte che lei deve abbassare la radio, perché sennò vengo là e la ammazzo. Primo, secondo, abbassi la radio che sta lì, perché non ne posso più di questi che alzano la radio a 1000 e poi chiamano per sentire la propria voce anche alla radio. Parli con me, punto e basta. Allora, che cosa ha detto di male Renzi? Non ho capito. Ha detto che bisogna andare. È il presidente del Consiglio, non è che poteva dire qualcosa di diverso, non è che poteva dire fermi tutti, si chiude tutto e, certo, non viene più nessuno per l'Expo. È chiaro, non è Francesco da Roma, è il presidente del Consiglio. È un po' diverso. Francesco. Non è Francesco da Roma, con tutto rispetto, eh. O Riccardo da Roma. sicuramente bisogna cambiare, e per cambiare bisogna cambiare un evento traumatico, so. Altrimenti lei dice, lei di, questo però è interessante, lei dice per cambiare le cose ci vuole un evento traumatico, allora porre, dire la parola fine all'Expo, lei dice un evento traumatico. Francesco, su questo, su questo si può riflettere, dicono... grazie, grazie. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, no, ma poi invece sta bocca. Spettacolare, spettacolare. Allora, caro Parenzo, ancora grandi ospiti qui alla Zanzara. Bene. Beh, bentornato a Marcello Dell'Utri, buonasera. Pronto, buonasera. Come sta? Come sì, sta? Sì, sì. È rinchiuso. A farmi fare la controfigura di mio fratello, È uguale praticamente, è uguale. Beh, diciamo... sono stato ingaggiato con il mio nome. Ottima trasmissione, sempre la migliore, vediamo se riusciamo. L'ha già detto, l'ha già detto di nuovo, le cose non si ripetono la seconda volta, o riescono la prima oppure basta. No, va bene. Alberto Dell'Utri, buonasera. Dai, buonasera. Non c'è più. Come sta? Bene, bene, mi scusi se ho la voce un po' agitata perché sto facendo la power walking. Che sta facendo? Cos'è? Scusi, signor Dell'Utri? Quello che in italiano significa passeggiata sostenuta. Ah, sta facendo una passeggiata sostenuta. Per mi il sembra, cuore. Mi sembra molto... cardiologo me l'ha ordinato di farlo ogni giorno mezz'ora 40 minuti. Ah, ogni giorno mezz'ora 40 minuti. La passeggiata. La consiglio a tutti, anche chi non ha sofferenze al cuore. Ma dunque, la cosa, lei mi pare piuttosto tranquillo per la sorte di suo fratello, signor Dell'Utri. Sì, anche lui la fa tutti i giorni, anzi un episodio divertente è quello che è successo l'altro giorno. Mi ha chiamato una giornalista da Beirut, sì? Allarmata carinamente, dicendo: guardi, ho visto suo fratello nella stanza, sì. È nervosissimo, sì. È bianco in volto, sì. Perché non mi ha dato neanche retta, mi ha salutato così soltanto, sì. Accennando, eh. E poi invece era perché dentro la stanza lui fa la mezz'ora di power walking, quindi deve nervosamente girare dentro la stanza. Cioè lei mi sta dicendo che suo fratello dentro la stanza di ospedale, che viene pagata profumatamente 600 euro al giorno mi sembra dal governo libanese, ma lasciamo, ho letto. Lasciamo perdere questo dettaglio, fa il power walking, o sbaglio? Sì, deve farlo, perché lì non può utilizzare nessuna palestra, non può fare fitness, non può, e quindi l'unica maniera è quella là, non può uscire. Ma è sicuro che lo fa? Sicuro al 100%? Sì, sì, no, lo fa sicurissimo. E come funziona questa cosa? Cioè, lei ci sta dicendo, suo fratello dentro la stanza di albergo lì dell'ospedale, sì. Dov'è? Fa un po' di passeggiata veloce, passeggiata sostenuta. Esatto, sì. Per mezz'ora, per una mezz'oretta. Sì. Vabbè. Esattamente. Senta, ma oggi ci sono notizie un po' negative in realtà, sul conto, positive diciamo per la giustizia italiana in teoria, negative per chi vuole come me per esempio che Dell'Utri rimanga in Libano, e cioè la spanghi, diciamo, no, vabbè, io la penso così. Le notizie sono che praticamente potrebbe essere decisa l'estradizione tra qualche giorno, certo. dicono, lei che notizie ha? No, io ho notizie da lei, dai giornali. Non ha chiamato nessuno? Non posso parlare direttamente. No, ho sentito i familiari, ma mi hanno detto la stessa cosa. Gli avvocati forse? Cioè che non sanno nulla di preciso. Non sanno nulla di preciso. Senta Alberto, sì. Dell'Utri, ma lei che cosa si augura? Diciamo la verità. Perché si augura che resti in Libano suo fratello, mi dica proprio sinceramente cosa pensa. Eccolo lì, la vedo impegnato nel suo ruolo principale, quello di fuggere. E beh, che devo fare? Dire qualcosa, no. Di uscire un po' di sangue. No, per carità. Non è che possiamo parlare solo della sua corsa, questo sa. Io preferisco non commentare. Cosa mi posso augurare? Cosa mi sarei io augurato? Oramai è tardi per augurarsi qualcosa. Mi auguro solo che mio fratello superi questo periodo di massacro assurdo. D'altra parte il risultato del processo è stato una giusta sentenza per un processo, sì. Brutale. Un processo brutale. Cioè per lei il concorso esterno alla situazione mafiosa è qualcosa che non esiste al mondo? Ma scusi, al di là della responsabilità singola, il reato è un ossimoro incredibile. concorso esterno, ma non ci rendiamo conto. Cioè? Per concorrere insieme dall'esterno. Cioè lei chi è? Scusi, io sono un concorrente esterno. Cioè non partecipo alla gara. Sì, cioè lei che è mafioso, però in realtà dall'esterno, diciamo, no? Ma è una forzatura questa qui, terribile. Però forzatura... lei non può non rispondermi su quella cosa lì. Lei che cosa si augura? Il ritorno in Italia e dunque in carcere, oppure che suo fratello in qualche modo riesca a impedire l'estradizione? Questo un po' me lo deve dire. Da fratello, insomma. Io non lo so, io le posso dire cosa farei io, ma cosa farebbe lei? Cosa farebbe? E quando mi troverò nelle stesse condizioni, le lo dirò. Più o meno a sensazione, conoscendosi, cosa farebbe? Io? Ma glielo dico, se dovessi trovare nella stessa condizione glielo dirò, è impossibile adesso avere un... No, ma lei si conosce però, si conosce personalmente, sa? Sì, io mi conosco, ma non mi conosco in quelle situazioni. Però diciamo lei, se qualcuno mi ci mette violentemente, come è successo a mio fratello, allora poi... Sì. Vedrò che cosa fa. Però un'altra cosa, mettiamola così, vediamo se riesco a stanarla da questa cosa qui. La cosa è questa: se suo fratello alla fine dovesse in qualche modo bloccare l'estradizione, lei sarebbe contento? Io da una parte sì, perché poi a quel punto lui avrebbe due chance, quindi potrebbe scegliere una o l'altra. Cioè? In quel caso potrebbe di rimanere o di tornare. Se invece c'è l'estradizione, non ha scelta, deve tornare per forza. Lo vedi, non c'è niente, non c'è modo di fregarlo. Guarda che pazzesco. Cioè, a questa domanda è riuscito a rispondere come se io non l'avessi fatta. Perché in realtà io credo che lei voglia che suo fratello non vada in carcere. Se lei si auguri no, che non vada. No, non lo so, lei continua a fare la zanzara, ma lei deve cambiare il suo programma, perché fin quando si presenta come zanzara, è chiaro che tutti si difendono e prendono le ciabatte. Ma scusi, ad esempio, signor Dell'Utri, signor Alberto Dell'Utri, lei, signor Manga, non l'ha mai conosciuto lei? Ma sì, l'abbiamo già parlato. Però certo, torniamoci un secondo. Certo che l'ho conosciuto. Era un bravo uomo. È una brava persona, comunque. A me sembrava una persona, anzi, pure simpatica. Stia attento che adesso danno anche a lei il concorso, di nuovo. Attento. Ma basta che sia esterno. Comunque era un bravo uomo, non, diciamo, un eroe da un certo punto di vista, disse anche suo fratello, di principi sani. Attenzione, non me lo faccio dire anche a me, perché non mi faccio cascare nello stesso errore che ha fatto mio fratello, il quale doveva precisare: Mangano non è affatto un eroe, eroe è Pietro Micca. Io potrei dire che è una persona normale che ha avuto un comportamento eroico, quello sì, perché ha sacrificato la sua vita per non assoggettarsi ai voleri della magistratura che voleva, lo pressava per dire delle menzogne. Sì. Però sbagliò suo fratello a chiamarlo così, a chiamarlo eroico, un eroe? No, non ha sbagliato, però doveva precisare. Doveva precisare, ha avuto un comportamento eroico. Eroe non lo possiamo definire di certo. Ma Berlusconi l'ha chiamata in questi giorni per sapere come sta Marcello, come va? Si è fatto sentire un po' il Berlusca o no? O tace? No, io non l'ho sentito, ma io non lo sento da un po' di anni, non è che ci sentiamo. Magari con questo evento traumatico pensavo che l'avesse chiamata. Cioè, è un po' strano. L'ha un po' abbandonato, Berlusconi ha un po' abbandonato la famiglia Dell'Utri in questo frangente, o no? Ma non penso, non credo proprio, no. No. Senta, suo fratello si è abbandonato io, non mi aveva abbandonato lui. No, suo fratello si è dichiarato prigioniero politico, è la definizione corretta? Ma io penso proprio di sì. Sì. Scusi, ma chi ha subito un processo di 20 anni malsano? L'hanno veramente tenuto a fuoco lento. È una cosa assurda. Sì, una cosa inconcepibile. Ma i mandanti, chi sono i mandanti di questo, diciamo, di questa operazione durata 20 anni? Tutti quelli che non hanno potuto sopportare. Non hanno potuto sopportare l'agire la presa del potere, adesso già che di Berlusconi, sì, quelli che non potevano sopportare la presa del potere da parte di Berlusconi. Certo. Sento una cosa, ma il concorso esterno alla fine no, perché è interessante questo qua. Suo fratello dice: io vorrei almeno i servizi sociali come Berlusconi. Se l'ha detto. No, lei dice concorso esterno, si potrebbe dire concorso esterno, no? No, il concorso esterno per me dovrebbe avere una condanna esterna. Ah, lei dice concorso esterno. Vogliamo essere conseguenziali, no? Cioè, per essere coerenti, concorso esterno, condanna esterna, cioè dire fuori dal carcere. Un attimo solo, De Lutri, si fermi un attimo per la corsa, poi conclusione con Alberto De Lutri, fratello di Marcello De Lutri, qui alla Zanzara. Siamo come lei, siamo come lei. Io, David Parenzo, voglio bene a De Lutri. Beh, questo resta certificato, però, caro Parenzo, quello che hai detto. Quello è che stato hai detto... estrapolato da un no, contesto. No, non è stato. Ma perché ti devi tirare indietro? Anche a te sta simpatico De Lutri. Ma diciamo la verità. Ma ci mancherebbe altro. E ma di la verità, tu invece lo vuoi in galera? No, io voglio semplicemente che la sentenza del tribunale. È come dire, scusami, lo dico ad Alberto De Lutri. Siccome De Lutri è un seguace di Socrate, perché lo rappresentava nel suo teatro di Verdura bellissimo a Milano, sì, metteva sempre in scena Socrate che beve la cicuta. E lui disse tempo fa, forse anche da noi: berrò la cicuta anch'io come Socrate nel caso mi dovessero condannare. E purtroppo questo è accaduto. E quindi beva l'amaro calice, torni in Italia. Capito, De Lutri? Sì, ho sentito le parole del suo sparring partner. Che sì. Dice? L'ho sentito, parlando di semaforo rosso, sì, è ragionissima, però quando il semaforo va in tilt, scusi. devo cercare di passare per forza, devo tornare. No, capisco. Senta, la sua metafora. Le chiedo ancora una cosa, il nome di De Lutri, il nome di De Lutri, sì, è stato in questi 20 anni, cioè ormai è sinonimo di... ovviamente adesso sto dicendo una cosa pesante, però quando si fa in Italia il nome di De Lutri, quando si va in giro uno dice subito: ah, ma la mafia, eccetera, eccetera. Ma lei non sente il peso di questa roba? Sì, sì, assolutamente. Questo è il danno più grave, perché De Lutri è fatta, è una famiglia numerosissima di professionisti integerrimi per bene, e che sono conosciuti da tutti, sì, come lo è anche mio fratello. E dunque, qual è il peso? Quindi, di questo è la infamante processo di 20 anni disumano, sì, di tenere sulla graticola una persona. Scusi, se era mafioso, se era colpevole di qualcosa, avrebbero potuto dirlo subito, no? Invece di tenerlo 20 anni così, a una gogna mediatica. Per cui... Un ultimo, un articolo di giornalista dell'Aglio, come si chiama, su Repubblica di ieri. No, come Merlo, insomma, come si chiama? Che c'ha l'aglio incorporato. Come l'aglio incorporato? Articoli veramente dal sapore acre. Chi era? Chi era? Francesco Merlo. Che se mi ascolta lui o qualche suo amico, già gli anticipo una querela. Sì, addirittura. Un articolo scritto ieri, veramente assurdo. Ma chi era questo qua? Sono De Lutri. Illazioni terribili sui De Lutri, cioè delle cose incredibili che ha scritto. Ma che ha scritto esattamente? L'ho detto il signor Dell'Aglio. Ma non è Dell'Aglio. Non è Dell'Aglio, Enrico De Aglio. Enrico De Aglio. Enrico De Aglio, non Merle. Enrico De Aglio. Enrico De Aglio si chiama. Enrico De Aglio. Enrico De Aglio è Alberto De Lutri. Non sento più nulla. Si chiama Enrico De Aglio. Enrico De Aglio. De Aglio, sì, comunque c'è l'aglio, quella è la cosa. Sì, De Aglio. Il cognome De Aglio. Sì, comunque sia. Vabbè, comunque ormai De Lutri è sinonimo di mafia, diciamo la verità, nella cosa, nell'accezione comune. Questa è una cosa infamante, lei la trova infamante come cosa? Cioè, io si sente... la trovo infamante, ma comunque per tutti quelli che ci conoscono i De Lutri gli fanno un baffo, perché sanno perfettamente invece chi siamo. Ah, ho capito. E tutte queste voci e queste voci, situazioni. Insomma. Non voce, una sentenza definitiva, voce. Sì, non è una sentenza scandalosa. 20 anni per emettere questa sentenza. Ma lei cosa disumana, ma lei, ma lei, siccome dice disumana, dovrebbe augurarsi che suo fratello alla fine non torni in Italia, e questa è la realtà. Invece, no, io mi auguro soltanto che lui sia sereno e capace di sopportare anche questa. Ma perché c'è pericolo invece del contrario? C'è pericolo che ne so, che tutto quello che sta succedendo gli possa, no? o no? No, secondo me non lo scalfiscono affatto, perché ha una statura morale e interiore fortissima. Forse a me avrebbe fatto qualche effetto, ma a lui sicuramente no. Cioè lei sarebbe morto, dice. Lei non sarebbe... lo so, dovrei trovarmi in questa situazione. Certo. Ma, ho capito. Vabbè, ma lei non va in Libano? Perché non va in Libano a trovarlo, a vederlo? Perché mi arresto dall'aeroporto, mi scambiano per lui. Ma no. Ma no, ma no, ma che c'ha qualche guaio pure lei? C'aveva un guaio, però non lo so a che punto è. No, io sono in cerca di guai, non ce li ho. Non ce li ha, dunque vabbè, cerca, vada in Libano, vada in Libano, no? Cioè... Ah, ma sì, adesso vediamo. C'è pure qualche casinò lì, c'è pure qualche casinò, si può pure giocare. Non c'è dubbio che sarebbe pure piacevole. Però appunto, aspetto che evolva la situazione, poi vediamo. Vabbè, si informi lei su che casinò c'è, ci faccia dire. Il nome dei casinò, qual è il migliore, qual è il più divertente. Assolutamente. Si informi anche sui giochi che ci sono, sui minimali, massimali. Beh. Si informi e poi così mi sa dire. Va bene. Almeno fare una cosa utile per me. Assolutamente. Non lo sto facendo agli per ordini. Lei. Agli ordini. A disposizione. A disposizione. A disposizione. Okay. A presto. A presto. Saluti. Arrivederci. Ma non corra troppo. Sì, stava correndo. Sembrava. Ma troppo. Esagerato. Troppo. Cosa pazzesca. Alex da Roma. Ciao, buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo. Dica. Grande appassionato di gioco d'azzardo, signor Alberto. Ha avuto pure qualche piccolo guaio, diciamo, col gioco d'azzardo. Chi non ha avuto guai d'altra parte, no? Beh, io no, francamente. Vabbè, però... tutti noi abbiamo avuto dei guai, dai, su. Cioè, si può, nella vita si può ogni tanto nella vita si può sbagliare, dai, su. Ma io ho avuto solo un processo per diffamazione che ma mi ha sì, appunto. Cala, guarda, questo diciamo noi. Alex. Sì, eccoci. Dica. Che vi devo dire, siete dei gran casinari. Io quello che vi posso dire è che non fate capire nulla, perché voi siete zanzare e quindi... In che senso non facciamo capire nulla, scusi? Fate capire nulla, cioè se io vi chiedo voi per chi votate, voi non rispondete. Siete peggio del fratello di Vellutri, no, come deviate. Alex, deviamo Alex, guardi, noi l'abbiamo sempre detto e lo diremo anche questa volta. Parenzo ha detto ricordo. Che Parenzo molto probabilmente vota, ha detto per il Partito molto Democratico. Molto probabilmente. Vabbè, ma mancano ancora 10 giorni. No, perché non è una certezza. Ho capito. Guardi, glielo dirò, non si preoccupi, glielo dirò. Ma non qual è il problema? Nessuno lo dice qui, nessun giornalista, nessun conduttore dice quello che vota. Siamo gli unici, tra i pochi, a dirlo. Ma lo avete detto, guarderò le registrazioni, sentirò. Sempre lo abbiamo detto, sempre. L'abbiamo sempre detto, mai nascosto. Non ho capito, Alex. Quindi cosa? Quindi che? Ripetetelo. Ma mancano 10 giorni, potrò aspettare all'ultimo prima di dirlo o no? Peggio di Vellutri. Ma che ci dia? Magari io credo che voterò Partito Democratico. Se vuole dico anche la preferenza a chi la do, se vuole. No, credo, ma io ho delle certezze. Ma adesso non esageriamo, so dai. Sono stato, se vuole, sono io stato dico. Per anni berlusconiano. So che sono massone e lo sarò ancora per molto ma tempo. Ma che vuol dire so che lei è massone? So che voterò Grillo. E vabbè, lei voterà benissimo, è viva. Voi ditelo. Ma massone di chi? Uno che è massone non lo dice così. Io so Alex da Roma. Ma che vuol dire massone? Cosa vuol dire? Che vuol dire massone? Quale massoneria? Perché Gran Loggia d'Italia di Palazzo Vitelleschi a Roma. Sì. Bravo. Oh, qual è il problema? Ma no, non c'è problema, è lei che fa problemi. È lei che problema. Si crea problemi da solo. Cioè, ma lei non, voi non mi rispondete, mi dite che poi vedremo. Ma questo è un rompicoglioni, questo guarda Alex. Sì, sì, sì, peggio di te, guarda. No, peggio di me è difficile, però no, Alex. Parla della quello che fa in questa massoneria. Scusi un attimo, signor Alex da Roma. Adesso lei vorrebbe da me che io le dicessi oggi che è il che cazzo di giorno è il 14. Cosa voto certo. Oggi io non lo so, potrei votare 5 Stelle ancora una volta, potrei. Il caro Parenzo ma ancora? L'abbiamo già detto PD. Molto probabilmente Palese, PD, anche se si contraddice spesso perché 9 volte su Grillo dice cazzato, una volta tanto si esprime dicendo che invece che è d'accordo. Ma quindi... dipende dalle cose che dice, dipende da che dice Grillo. Comunque io credo che voterò Partito Democratico, sì. Va bene, credo. Poi ci può lasciare altri 10 giorni per riflettere oppure magari vuole una risposta oggi? Mi richiamate per dirvi che... Ma per dirle a lei, ma è matto! Ma che cosa perdiamo tempo dalla radio della confusione per chiamare Alex da Roma, ex massone, ex berlusconiano, massone che mi rompe i coglioni su chi... Perché ti dobbiamo chiamare? Perché? Perché dobbiamo chiamarti? Mi avete chiamato oggi per farmi esprimere la mia opinione. No, non ti abbiamo chiamato, è lei che ha chiamato e noi abbiamo richiamato, grazie. C'è tanta roba su Grillo, eh? C'è tantissima roba su Grillo, nuova di zecca, nuova di, a parte Vespa, a parte le cose di politica, eccetera, eccetera. Ancora su Dudu e la vivisezione, senti. Ma la festa! Siamo Hitler! Hitler! Io sono cattivo! No, quel nano, lo psiconano che va per canili con questo cazzo di Dudu, che bisogna darlo alla vivisezione! Solo Dudu! Dudu alla vivisezione. Senti, anche mia moglie ha un cagnetto. Senti questa roba. Questi cagnetti ce l'ha anche mia moglie, porca puttana. Questi cagnetti che avevano una funzione istintiva, il cagnetto. Questi cagnetti che entravano nelle miniere, nei cunicoli, si infilavano nei cunicoli a caccia di topi, aggressivi, piccoli, ma facevano un culo così ai topi. Adesso li vedi dentro una borsetta del Louis Vuitton così che spuntano. Tutti profumati, Chanel numero 5 del naso. Appena escono e vedono una merda, gli si sdraiano sopra perché ritornano alle origini. Questo, devo dire, quando fai il comico così è eccezionale. È prima sì, i cagnetti sì. Si intrufolavano ovunque, andavano per terra, cacciavano i topi. Adesso li vedi spuntare da una borsetta di Chanel. Spettacolare, spettacolare. Oh, molto poi ancora bello. Con sta stampante 3D. È ritornato con sta stampante. Io ho una guerra in corso su sta cosa delle stampanti. Non me ne frega niente di costruire con le stampanti, cazzo! Non le voglio le stampanti per costruire le case. Se le tengono in America! Le tengono in America le stampanti, oh, in Giappone! Esatto. Basta, non le voglio, voglio costruire col cemento, con gli operai! Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao! Non mi molesti moschito! Non vi abbandonerò mai! Non mi molesti moschito. E il conduttore? Sì, sono io. E il conduttore? Eh sì, ma chi deve. Se uno chiama una trasmissione radiofonica, ma interviene un altro. Cioè, chi deve essere? Lo sai che l'ho incontrato? No. Sì, l'ho incontrato. E che faccia? No, mi ha fermato davanti al salone del libro di Torino, all'ingresso. È il conduttore? No, stava distribuendo dei manifesti elettorali per Catizzone, un candidato del Partito Democratico, non so dove, forse alla regione, in Piemonte. Mi ha fermato e mi ha detto: sono io quello del conduttore. No, ma non ci posso credere, ho detto, ma veramente sei tu? E ha detto sì, ma mi sono trovato lì, pensavo di... Ma è una cosa incredibile. Sembra una persona normale, eh. Cioè... Beh, ti credo che è una persona normale. Cioè... Adesso io voglio capire chi mi rompe i coglioni, aspetta. Aspetta, anch'io qualche volta so che mi rompo i coglioni, aspetta. Chi è? Beh, hanno attaccato. Ha chiuso il coniglio, hanno eh. Attaccato. Ha chiuso il coniglio. Con numero privato. Ancora Grillo. Durissimi, durissimi. Non abbiamo bisogno di lampadine ma di luce. Ma senti, senti sta roba. Noi abbiamo bisogno di movimento, di freddo, di caldo. Non abbiamo bisogno di lampadine, abbiamo bisogno di luce. Allora deve cambiare. Allora se io faccio caldaie, io che le produco, non devo produrre più caldaie, vendere più caldaie e la crescita delle caldaie. Me ne basta una fatta bene, te la do in affitto, tu mi paghi 22 gradi. Se non ti do i 22 gradi non mi paghi più. Paolo da Firenze. Pronto? Paolo, dica. Senta, non deve contraddirmi assolutamente, perché mi nervosisco e sono in cura. Oh, sì, è in cura dove, scusi? E sono in cura. Dove sono in cura? Scusi. Allora, ascolti bene. Sì. Voglio dire a Parenzo alcune cose. Parenzo mi piace sia come uomo che come donna, ma sui 5 no, scusi, stelle lei è in cura. Sui 5 stelle. La premessa trovo... è che lei è in cura. La premessa di questo intervento, che ovviamente finirà. Certo, lei non mi deve contraddire, deve ascoltare. Ma la premessa è che lei è un uomo in cura. Qualunque roba lei dica, appunto, la premessa è che lei è in cura. Lei capito? Non può interrompermi. No, ha capito? Posso fare il nervosisco. Io vada. Allora, vada. Quello che mi pare. Mi nervosisco, me ne frega un cazzo che si nervosisce. Lo faccia fare zitto, per favore. Beh, adesso io faccia parlo stare quanto zitto. Mi pare, ma vada, stai avanti, scherzando. Vada avanti, stai zitto. Allora, siccome politicamente Parenzo non capisce niente, però ho saputo che è informatissimo sulle usanze tribali religiose dell'Africa del Nord. Ma non mi risulta allora, una piccola, no, io l'ho letto, non mi contraddica. L'ho letto su un, l'ho letto sul sito. Lei, allora, quale sito? Lei, allora, sul lei posto. Ha bisogno allora, immediatamente di prendere la pillola che oggi ha saltato. Allora, immediatamente. Le ripeto, a me Parenzo piace come uomo, lei come donna. Ma come uomo, come però, donna, non ce ne può fregare di meno. Ma non dove chiama? Ascolti bene. Allora, io voglio sapere perché la circoncisione ai ragazzi in pubertà e nel passaggio poi all'adolescenza nei paesi del Nord Africa questo avviene ma in noi tutti che i paesi frega, meno che in Algeria. Ascolti bene, ma che ascolti bene che cosa? Matto! In Algeria, ma cosa dice? Ma in Algeria il ragazzo nella pubertà a 13 anni deve fare un pompino al nonno materno. No, aspetta, è vero. Ma cosa lo chiedi a me? Dell'Algeria? Ma si rende conto? Ma è matto. Non mi contraddica, è vero. Ma no? Non mi contraddica cosa? Non mi contraddica. Il motto adesso è non mi contraddica. Ma non mi contraddica. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa. Prenda atto che ormai è tutto finito. Allora, Paolo da Firenze. Dica. Ma dica un cazzo, ma beh, Paolo. Ma come dica un cazzo? Non mi contraddica, Fruciani, non mi contraddica. Ma dica su cosa, Scucci? Ma sono in cura. Ma questo è evidente che è in cura. Il psichiatra ha detto che non devo essere contraddetto. No, perché però mi fa male questa cosa. Allora lei dice, la contraddico perché lei dice sono stupidaggini. No, sono stupidaggini. Deve dire. E io la contraddico perché dice stupidaggini, ha capito? La contraddico. Lei mi deve spiegare questa io cosa dell'Algeria. Non no, devo spiegare niente. Aspetti Paolo, allora ricapitoliamo. Cosa succede secondo lei in Algeria? In Algeria, al passaggio dalla pubertà all'adolescenza, invece della circoncisione, il maschietto, e non lo dicono e non lo tirano fuori questa cosa schifosa, deve fare un pompino al nonno materno. Incredibile. No, incredibile. È incredibile che uno come lei, in cura, malato, che non vuole essere contraddetto. Non deve parlarmi con questo tono, mi nervosisce, mi fa male. Però scusi, Paolo, ma lei è in cura per che cosa? Non ho capito perché cosa è in cura. Ma per tutto sarà in cura, scusa, sentilo, per tutto è in cura. Perché cosa è in cura? Io ho una leggera... depressione ossessiva schizofrenica. Non è leggera. Depressione non è leggera. Vabbè, secondo me ci sta pigliando per il culo, però. Sicuro, Paolo da Firenze, dai, su, ci sta pigliando per il culo. Dica così, per favore. Non mi tratti così, Cruciani. Io sono una persona normale. Sono solo in cura. Solo in cura. Ma capito o no? Ma cosa le dice il medico che può chiamare tranquillamente? Che può chiamare tranquillamente la zanzara per cercare di superare questo momento difficile, oppure no? Io non esco mai di casa. E devo parlare, mi ha detto comunicare. Mi sembra che la trasmissione vostra è molto adatta a me. Parenzo può smentire questa cosa dell'Algeria. Sì, non conosco. Questo è importante per me. Sì, se per lei è importante non ne siamo a conoscenza. Non ne siamo noi. A conoscenza, esatto. E allora chiamate Scarbi, lui sa tutto. No, intanto guardi. Richiamiamo il medico, questo è sicuro, guardi. Richiamiamo il suo medico. Scarbi, lui di sesso sa tutto, lui è bravissimo, lui sa tutto delle troie, dei maiali. Da quanto tempo è malato lei, signor Paolo? Da quanto è che sta in questa grave versa, in questa grave situazione? Da quanto? 25 anni. Ormai è difficile, è difficile. Grazie, ha capito, Paolo. Ha capito? Sì, ma ho capito che? Cosa ho capito, cazzo? Stia calmo! Ma sono calmissimo. Siamo calmissimi noi. Siamo calmissimi. Deve parlarmi in un modo corretto. Ma scusi Paolo, abbia pazienza. Lei vuole sapere se è vera la tradizione che esiste secondo lei, perché io non ho mai sentito parlare, per cui per passare in Algeria dalla pubertà all'adolescenza uno fa un pompino al nonno materno. Ma non è nonno materno. E questo è fatto, è una cosa scandalosa e nessuno ne parla. Ma te credo, per forza nessuno ne parla, Paolo. Vabbè, questo sta morendo pure con la tosse. Vabbè, arrivederci Paolo, arrivederci. Well, now a little mosquito there must be. Ma perché non chiamano da Barisoni questi signori qua? Io veramente. Ma non ci sono le telefonate in diretta. Ma non è solo questo il motivo, fidati. Non è solo questo il motivo. Carmine, provincia di Benevento, dai. Buonasera, Cruciani. Dica. Io sono un impiegato e appartengo a quella categoria di persone che a fine mese prenderà i famosi 80 euro in busta paga. Sì, dunque? Io non penso siano un'elemosina. Vabbè, infatti lei si prenda questi 80 euro, se è contento così, si intaschi 80 euro, li spenda, faccia quello che vuole. No, ma io sai perché penso che non sia un'elemosina? 80 euro per 12 mesi sono circa 1000 euro in un anno, che per me, per il mio reddito, non sono pochi, no? Sì, sì. E poi lavoro da 20 anni e in 20 anni non si è mai verificato che io da un mese all'altro mi ritrovassi 80 euro in più in busta paga. Sì. Certo, 150 sarebbero di più, però non mi lamento. A parte che non sono 80, perché sono per alcune fasce di reddito 50, 60, solo per alcuni 80, per cui anche questa cosa degli 80 euro alla fine è una balla colossale. Comunque, io la considero un'elemosina e penso di non essere il solo. Cioè, per uno come me che guadagna 1400 euro. Non c'entra niente. Carmine ti sta dicendo un'altra cosa. Io sto dicendo che è un provvedimento economico, secondo me. È un piccolo aiuto. Ma per te, ma per lui è un piccolo aiuto. Io sto dicendo che in generale, al di là delle tasche personali, sto dicendo che è un problema. Ma non c'è bisogno di aiuto, c'è bisogno di riforme del fisco. Ma d'accordo, ma tu non hai mai. Ma scusami, ma quello era Achille Lauro che dava aiuti, Berlusconi che aiuta le persone. Ma quale non uno statista. Basta con questa roba qua. Un aiuto, ma che vuol dire? Non devi aiutare, non devi regalare. Ma intanto è un restituire. Ma che restituire? Basta con questa storia di restituire. A chi ha bisogno? Restituire a qualcuno. Dai su, mi sembri veramente, cioè, asservito alla peggiore propaganda, Carmine. Quale propaganda? Io quando Renzi dice stupidaggini. Per dire, il contratto della mia categoria di lavoro è in discussione da 3-4 anni. Sì, ma non c'entra niente. Ma quelli sono in cui sarà approvato, mi daranno 15 euro al mese in più. Sì, ma perché c'è la contrattazione collettiva, purtroppo. Perché purtroppo l'Italia è un paese malato da questo punto di vista. E dunque è chiaro che con la contrattazione collettiva al massimo si ottengono. Sì, ma non sto dicendo che non fanno comodo. Anche io, se passo per strada, uno mi dà 80 euro al mese, dico certo, e me li regala, me li prendo. Ma questo non vuol dire nulla, a parte che ci sono le detrazioni che diminuiscono. Le detrazioni diminuiscono. Certo, comunque bisogna vedere la cosa complessiva, a cosa rinunciamo per avere questi 80 euro. E poi a me le riforme del fisco fatte male, anzi le non riforme del fisco, mi danno fastidio. Giovanni d'Ancona. Giovanni. Luca d'Arezzo. Sente? Sì, Luca, dimmi. Cruciani, buonasera. Sì. Io volevo dire una cosa molto importante. Prima avete parlato di Dell'Utri, quell'avanzo di galera, perché a questo punto è un avanzo di galera. Sì. Io non capisco come mai personaggi di questo tipo hanno ancora il senso di essere nominati come persone per bene. E poi un'altra cosa, con tutto quello che è accaduto con l'Expo 2000, cioè l'Expo 2014, diciamo che si può solo dire una cosa, che la banda Berlusconi e Company hanno in questi anni portato l'Italia alla situazione di avere mezza Forza Italia in galera, Vabbè. O presunta tale. Vabbè. A questo punto dico... Perché in Italia non si mette un plotone di esecuzione e questa gente condannata non si porta la pena di morte? Bene, diciamo che è una teoria piuttosto interessante, no, Parenzo? La pena di morte perché per chi è condannato. Vede, ma lei è malato di mente, lo sa che lei è malato di mente. No, è più malato di quell'altro. Come si chiama lei? Qual è il suo nome di battesimo? Qual è il suo nome di battesimo? Ascolti. Qual è il suo nome di battesimo? Quello che richiedo. Mi dice il suo nome di battesimo, mi sono perso. Il movimento sociale, il vero movimento sociale, quello di una volta. Per riportare un po' di ordine. Vabbè, il movimento sociale di una volta, sì, certo. Come che no? Veramente vuole uscire da questo pantano. Allora direttamente Mussolini, scusi. E perché no, Mussolini bisogna fargli tanto di onore. Perché Mussolini. Scusi, qual è il suo nome? Il suo nome di battesimo? Benito sarà. No, assolutamente. Come si chiama lei? Però, che lo schermo qua. Come si chiama? Però io ho un altarino dove c'ho Mussolini. Va benissimo, va bene. Se levanta pure. Ognuno ha le sue cose. Come si chiama lei? Però quello che voglio dire a voi, ma non osannate queste gentaglie da quattro becchi. Ma chi esalta? Nessuno. Noi giochiamo e ci divertiamo. Senta, come si chiama lei? Le migliori galere che abbiamo in Italia. Benissimo, come si chiama? Il suo nome di battesimo qual è? Non capisco come mai con tutti i servizi segreti nessuno va a beccare quel... l'avanzo di galera del Libano. Come si chiama lei di nome? Noi non possiamo avere paura di un Libano quando l'Italia ha di tutti i suoi servizi segreti. Ma vedremo come andrà a finire. Con niente non... Cioè, facciamo ridere Polli. Quello può darsi. Come si chiama lei di nome? Polli. Un condannato... Non risponde, vada a fare in culo. Grazie Roberto, ma abbiamo Riccardo da Roma. Salve. Lei è diventato il numero uno. Forse sono diventato il numero uno perché dando il coglione a Parenzo praticamente ho fatto quello che volevano fare milioni di ascoltatori. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Coglione, ma che cazzo parli? Pagliaccio, guarda, come tranquillo. Stai zitto? Taci. Taci. Pagliaccio. Pagliaccio, tu devi tacere! Quel radical chic, idiota, avvocato delle cause perse. Difendimi pure la babbiona, mo. Vergognati, pagliaccio, vergognati! Si è lodato Gesù Cristo, sempre. Non dica così, per favore! Non mi tratti così, Cruciani! Spettacolare, spettacolare. Allora, con grande piacere, caro Parenzo, dopo tantissimo tempo, sì, ma veramente tanto tempo, ospitiamo qui alla Zanzara una persona che è stata... sulle prime pagine dei giornali qualche anno fa, oggi per sua fortuna è uscita dai riflettori, ci è tornata in questi giorni per una vicenda, diciamo, di litigio addirittura per strada. Patrizia Daddario, buonasera. Sì, buonasera a voi tutti. Come buonasera sta? Chi mi ascolta? Come sta malissimo, signora? Malissimo, eh? A differenza di persone che rilasciano interviste dove sorridono pure. Stiamo parlando di quello che è successo con la signora, com'è che si chiama? Barbara Montereale, se non sbaglio, sì, no? Ecco, signora... Ditelo voi, perché io, lo dice lei nell'intervista che ha rilasciato a Repubblica, sì, dove sorride abbastanza e dove praticamente dice che io l'ho ignorata, questo è il termine esatto, io l'ho sempre ignorata in questi 5 anni. Sì, allora però cerchiamo di riassumere la cosa. Non capisco come mai, se adesso tutte le dichiarazioni che le ha fatto, è stato un vero e proprio incubo per me. Non so come altro definire quanto è successo la sera del 12/5/2014. 12/5 che sarebbe 3 giorni fa. Sì, 2 giorni sì, fa. 2 giorni fa. 12/5, uno sembra 3 anni fa. No? Appunto. Due giorni fa. Parla come un mattinale della questura. Non è la questura. Innanzi a noi, 12/5 accompagna. Sta molto male. Ma che c'ha esattamente? Adesso ci racconta. Ma che ha esattamente? Dove è stesa? Sta è ancora in... passato tutta la notte in ospedale. Insomma, mi hanno visto tutti in che condizioni ero. Certamente avete visto invece la signora in che condizioni, diciamo, si vede la differenza, penso, si potrà vedere anche in sede giudiziaria. Sì. Io non solo sono stata insultata pesantemente e gravemente offesa ed ingiuriata dalla signora Montereale e mi ha addirittura picchiato. Ma che cosa ha detto? Però in ogni caso... No, scusi un attimo, mi vuole dire una cosa, sì, per far dico capire agli ascoltatori, cioè sì, come vi siete incrociate per strada? Allora, io praticamente ero lì, salutavo una persona e non l'ho neanche vista la signora, sono andata in casa di questa persona che è un conoscente, amico suo, e sono entrata in casa di questa persona ed ero a parlare con questa persona seduta alla sedia. Questa persona ha lasciato la porta aperta perché, diciamo, abita al pian terreno, sì, e la signora era fuori, da fuori si è ritrovata praticamente nell'appartamento ed era sola, preciso questo, non c'era nessuna bambina. Voglio precisare in primo luogo, no, però scusi un attimo, se no non si capisce, preso dai giornali, no però non si capisce niente. Allora, la signora Barbara Montereale, ecco, sostiene che lei praticamente l'ha aggredita per prima, giusto? Assolutamente no, non corrisponde al vero. Dice che lei l'ha presa per i capelli, l'ha presa per i capelli e urlava puttana, allora, sputava. La persona, allora, è esattamente il contrario a quello che dice la signora. Sì. Che non corrisponde al vero, la signora mente spudoratamente. Ha Quale bisogno scusi? Lei di molta pubblicità sui giornali. Signora Daddario, però mi permetta. Ha vissuto di luce riflessa in questi 5 anni, di sì. tutto quello che raccontava. Soltanto su di me, ma perché non racconta quello che i magistrati sanno su di lei? E che sanno? I magistrati sanno tante cose, che lei ha sempre mentito ai magistrati. Che sanno i magistrati su di lei? E tutte le altre. Io sono l'unica che ha raccontato però... la verità. Ma che cosa sanno i magistrati su di lei? Perché che cosa ha mentito? Come la considera? Vedrete durante il processo Taranchini, se la signora ha avuto delle conseguenze, è stata danneggiata, la sua vita è stata, non se la deve prendere con me e venire a picchiare me, insultarmi, chiamare puttana e prostituta. La signora dopo 5 anni continua, l'ha fatto per 5 anni sui giornali e continua a farlo ancora oggi. La signora invece se la deve prendere con se stessa? Se la deve prendere con se stessa. Io ho solo risposto ai magistrati sì. quando mi hanno chiamato la prima volta e sono l'unica sì. che ha raccontato la verità che in quell'occasione io ero con 2 persone perché i magistrati me l'hanno chiesto. No, ma lei come la considera? La signora Montereale come la considera lei? Una prostituta? Come la considera? Ascolti, io non l'ho sempre ignorata e continuerò a ignorarla la signora. Voglio precisare una cosa importantissima. In sì. primo luogo, non corrisponde al vero quanto appreso dai giornali circa la presenza della bambina della Montereale al momento dell'aggressione. Vabbè, io ma qui non siamo davanti a magistrato. Già mai mi sarei assardata ad aggredirne uno, figuriamoci una bambina. Ma non siamo da Dario, non è la polizia. Ma non è la polizia, noi è una trasmissione. Non stiamo facendo a verbale. Lo so, però la signora mente pure su questa storia. A verbale, Cruciale. Io sono a verbale. Sconvolta di quello che lei letteralmente e mettiamo sta a verbale, dicendo vabbè. Ai giornali. Scriviamo a verbale, Allora, mettiamo tutto a Dario, certo. apparsa ha avuto pure il giorno 14/5 sua figlia, quando sua figlia non era presente a questa aggressione. Però signora Dario Cruciani, noi non capiamo niente, io non so perché, si sente malissimo, forse lei in una stanza chiusa, forse al viva voce, non lo so. Al viva voce lei? Io non ho mai insultato. No, ma lei ha un auricolare. Non ho mai insultato né offeso quello che ha fatto lei. Lo sa lei e soltanto, e a me non interessa, non ha mai interessato. Lei invece, a 3 anni fa, la mia bambina l'ha coinvolta in una vicenda spiacevole, sì, in una merce dei mass media, senza alcuna colpa, perché ha pubblicato delle foto di mia figlia, all'epoca 13 anni, minorenne, senza neanche coprire Vabbè. Gli occhi, sì, al giornale Oggi. Però, senza protezione di questa ragazzina, scusi. Che le ha rovinato la vita per 5 anni questa bambina, che per 3 anni non mi ha parlato. Vabbè. Quindi la vittima è lei? La vita distrutta sarebbe la sua. Usciamo ma un istante, signora Daddario, dal... Basta guardarla in faccia la signora e capire chi è la signora. Perché? Che se uno la guarda in faccia che cosa capisce? Beh, la signora sorride nell'intervista. Sorride, non è che l'intervista è il giornale. Hanno pubblicato una foto sui giornali, non è che sorrida, hanno pubblicato una foto in cui ride, ma non è che magari al momento dell'intervista non ride. Sorride, una persona che subisce un'aggressione non sorride. Ma ho capito, era una foto vecchia magari. Tutto quello che ha detto sulla mia persona dopo 5 anni, la Vabbè. Signora si permette ancora di buttare fango perché ha bisogno lei di pubblicità sui giornali. Scusi un attimo, in questi intervista... Io non ho bisogno. Io sono stata letteralmente in silenzio per tutti questi 2-3 anni. Signora Daddario, scusi un attimo, ma lei non ho voluto più rilasciare interviste. Lei che cosa ha in faccia adesso? Che conseguenze ha avuto da questa aggressione che lei dice di aver subito e la signora Montereale invece dice il contrario? Che ha in faccia? Senti, non è questione di avere in faccia. In ospedale hanno visto in che condizioni sono arrivata. E qual è il referto? Quando... Qual è il referto? Allora, come? Qual è il referto? Mi scusi. Dell'ospedale. Dell'ospedale. Cosa le hanno scritto all'ospedale dopo averla visitata? Trauma cranico, facciale, nasale, post-traumatico cervicale. Sto molto male, scusatemi, quindi... Sta molto male. Se volete ve lo mando tramite via. No, per carità. Beh, va bene, sì, lo mettiamo nel sito della Zanzara. Sto molto male in questo momento. Assolutamente. Scusi un attimo, però. Ma per chi voterà lei adesso alle europee, ad esempio? Possiamo chiederglielo, se così usciamo. Cioè, come dire, Allentiamo la tensione. Per chi voterà alle europee, signor Daddario? No, ascolti, non fatemi queste domande. Credo che oggi non è proprio. Vabbè, perché l'abbiamo chiesto. Era per allentare la tensione. Io ho detto una frase su Berlusconi. Sì. Però non forse è stata fraintesa questa frase qui. Qual è la frase? Io ho detto questa frase. Qual è la frase? Cioè, ho detto adesso chiederò a lui, sì, dopo che io ho subito questa aggressione. Sì, sì. E allora? Conferma? Allora, io praticamente ho detto questa frase. Sì. Perché a me non compete individuare che sia giusto tutto quello che sta accadendo. Io sono stanca di dovermi guardare le spalle da ogni lato, sentirmi sola, abbandonata alla mercé di gente senza scrupoli e senza onore. E allora chiede a Berlusconi di risolvere. Senza sfruttare gli altri, come in questa occasione, solo per avere copertine di giornali, come ha sfruttato me, pur di arricchire il proprio tornaconto. Io intendevo dire che ho intenzione di chiudere il cerchio e non mi porta più in che modo. Non reggo più questa situazione. Io sono completamente alla disperazione. Alla disperazione. Devo fare in modo che tutto finisca. Io sono l'unica persona coraggiosa in questi 5 anni che ha sempre detto la verità. E qual è la verità? Io rivoglio la mia vita. Ho perso tutto, non solo la mia dignità, i miei progetti immobiliari, mia figlia, la mia famiglia. Io intendo riprendermi. E Berlusconi come può fare? Anche a costo della mia vita. Cioè lei, perché pure emerga la verità. Ma quale verità di che? Di che cosa? La verità di tutto quello che io sto subendo e di tutto quello che fino a oggi non è uscito fuori. Ma Berlusconi la può aiutare? Io oggi non voglio stare più zitta. Questo è quello che voglio dirmi. Non voglio stare più zitta. Proprio Base a quest'ultima aggressione che ho ricevuto, perché l'anno scorso ho ricevuto un'altra aggressione. Sì. Quindi, allora, se queste aggressioni vengono fatte perché qualcuno deve avere dei tornaconti, semplicemente e avere copertine sui giornali, io sono stanca. Perché a me non entra nulla, a parte il fatto di essere rovinata ancora di più la mia vita. Ma Berlusconi come la può aiutare? Berlusconi come la può aiutare? Ma ascolti, se Berlusconi avrebbe voluto aiutarmi... Sì? Lo avrebbe già fatto, dice lei, no? Pronto? Pronto? Io non voglio nulla da lui. Io non ho mai chiesto nulla al presidente Berlusconi. Io dopo che ho conosciuto il presidente Berlusconi, a me è stato tolto tutto. Tutto quello che io avevo. Sì. La mia vita. Da chi? Da chi? Mi è stato tolto tutto dal sistema. Io voglio tornare ad essere, non a essere. Dal sistema. Provo chiunque sfido a trovare qualsiasi prova in questi 5 anni che io abbia mai fatto la export. Quindi persone come la signora, come tanti altri che rilasciano interviste chiamandomi escort, cioè scusi signora Daddario, dovrebbero guardare lei, quindi, prima se stesse. Io sono Patrizia Daddario. Certo, lei sta facendo da qui dalla Zanzara un appello. Mi dica io sono un essere umano. No, ho capito, mi dica se dico correttamente, così ci calmiamo un secondo. Lei dice, allora faccio un appello oggi che è il 14 maggio 2014 alla Zanzara, chiedendo sostanzialmente anche a Berlusconi, insomma, che intervenga per mettere pace in tutto sto bailame che si è scatenato dopo le mie visite di... Se non lo farà, lo farò io a costo della mia vita. Lei chiede però a Berlusconi di intervenire in questa vicenda perché non si verifichino più casi di aggressioni, è questo che lei dice? Basta, io sono stanca perché sono l'unica che qui subisce altro che ipotetiche persone che dicono che è stata distrutta la vita, ma in quale maniera? Ma lei io sta... prove di tutto quello che mi sta succedendo. Ma lei sta pensando ha pensato al suicidio? Ascolti, io l'ho già ripetuto adesso, io anche a costo della mia vita lo devo a mia figlia soprattutto. Anche a costo della sua vita? Deve emergere la verità. Deve emergere tutto quello che mi è successo e che continua a succedermi. E persone che solo per avere giornali e pubblicità rovinano e discreditano la mia persona. Vabbè. Fino ad oggi ho dimostrato in questi 5 anni che sono l'unica ragazza che ha raccontato la verità su tutto, sul sistema, sullo schifo che c'era. Sì. E tutte hanno mentito. Cioè su Tarantini, sui soldi dati da Berlusconi, sulle tutte serate. Hanno mentito. Ma che facevano? Perché erano lì quelle signorine? Per prostituzione? Perché erano lì? Alcune come accompagnatrici, altre per fare le serate e basta, altre per prostituirsi in cambio di denaro o no? Io non mi interessa. Non interessa. Ma allora qual è la verità? Qual è la verità che deve emergere? Appunto. Qual è la verità che deve emergere allora? Queste persone persone, non mi interessa. Io so tante cose di queste persone, compresa della signora che ha fatto l'aggressione. Sì. Ma io non ho mai detto nulla su questa persona. E sapevo tante cose e continuo a sapere tante cose. Ma se uno continua a dire così si capisce niente, però. Questa persona per me per me è indifferente, totale, soprattutto da quando ho pubblicato le foto di mia figlia. Senta, quindi ho tolto il saluto. Va bene, senta una cosa, lei alla fine, un po' per alleggerire la cosa, lei alla fine ha ancora fiducia in Berlusconi come persona, come politico, cioè il 25 di maggio? Io non ho mai parlato male. Appunto, no, ma lei voterà per Berlusconi il 25 o no? Ascolti, io non andrò a votare. Non andrà a votare, benissimo. Le dico solo quello, non andrò a votare perché... in questo momento non me la sento, non mi interessa. Vabbè. Io voglio soltanto che si ristabilisce la verità su la tutto quello che mi è successo. Ma la verità grazie. Nessuno lo farà, e se neanche il presidente potrà. Io non ho mai chiesto soldi, non ho mai chiesto nulla. E adesso li chiede? Adesso chiede soldi? No, assolutamente no. E che chiede allora? Che chiede al presidente? Io voglio soltanto che la verità esca fuori. Ma quale? Di cosa? Successo. Vabbè, grazie, arrivederci. Grazie. Allora, Fabio, provincia di Ascoli, via. Buonanotte. Vai, Fabio, via, dimmi. Ah niente, ieri sera Cruciani si è fatto schifo veramente, guarda, ieri sera ho toccato il fondo. Sì, perché prima che quello delle 5 Stelle, dopo quell'altro due lì che non sapeva se accusava uno che un'altra, poi alla fine si è fatto sentire proprio la menata di quello di Roma, lì che ha rotto i coglioni. Ma che cazzo è, dai, su, ieri sera ho toccato il fondo. Parenzo, manda a fanculo tutti quanti! Parenzo, mandali a fare in culo tutti quanti, quelli che ti assalgono! Agli ordini, grazie, agli ordini, qui a combattere! Qui a tenere il vessillo, a combattere! Di cosa? Di cosa? Vessillo di che? Di che cosa? Il vessillo della libertà, della democrazia, dei diritti! Rimango qui in trincea, assediato da Cruciani, a combattere! In conclusione, l'ultima prodezza di Borghezio. L'ultima prodezza di Borghezio in un mercato di Roma. Senti, per concludere, ci sentiamo domani a 18:30. Ciao. Arriva. Si può comprare un bel cacchio di banane, fanno molto bene, perché noi che non siamo razzisti mangiamo volentieri le banane, gentilmente sia un sacchetto. La banana è popolare! La banana appartiene a una grande civiltà, quella del popolo africano, che noi rispettiamo, ma ciascuno padrone a casa sua. Quindi noi non andiamo a rompere i coglioni agli africani. E loro qui devono comportarsi bene. Buon appetito a tutti, se qualcuno ne vuole ce l'ha. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non mi contraddica, Fusani, non mi contraddica!